scarpa si abitua, cioè comincia a pigliare forma, no? Beh, non so, insomma, pensiamo un po' di luci, è un casino. Poi ma non ti stanno più. E ti sei usa? Che bello, ma sono rilassato. Da ieri, mamma mia. Erano due anni così, due anni. Cioè, cazzo devo fare. Vuole anche cioè, gli spazi, i spazi, no? Stai un po' solo. Sono rilassatissimo qui. Eia, però almeno ficcavi, adesso non ficchi più. Cosa mi raffutti qua? Sai cos'è Marco lì? Quando mi dai, non lo fai da te, quando mi dai mi passa la gara. Lo so, ne so qualcosa io. Ne so qualcosa io, Luca. Poi mi, a parte, vabbè, adesso le donne, a parte le donne. Poi se piove, se viene pioggia di rotto, se proprio devo uscire c'ho gli stivali in gomma, quelli alti fino al ginocchio, te li metti sotto i pantaloni, oppure metti i pantaloni dentro lo stivale e quelli sono di gomma. Ce li ho sia neri che verdi, capito? Verde militare. Interessante che non passa acqua, ma soprattutto freddo. Ah vabbè, io già... Quando c'è quelli di freddo, non so, in girella, questa è macchina. Sono i TVT, è l'aria calda, non c'è freddo, è l'aria calda, ti fulmina, me mi ammazza. Una cosa va di gola, quella è una cosa che mi ha di qua. Ehi, sì, con gli sbalzi di temperatura, sì. Pensa che quegli stivali li usati per fare i ricci e non arrivano al polpaccio, arrivano proprio al ginocchio, arrivano. Li usati per far ricci, avevo proprio i piedi messi nell'acqua di mare e non passava niente perché sono di gomma o PVC o quello che sono fatti apposta, ecco. Yeah. Beh, adesso Luca mi pide il caffè, dai, poi vediamo se rientra Gianni. Vai, lascio qua, l'ascolto. Piuttosto, Pomponio, l'hai fatta questa pipì? Che pallista, quello è andato a bere, mi ha bere la birra. E beh Luca, cosa ti guardi in TV? Sto guardando Focus News. Stanotte c'è di nuovo, l'ho visto un milione di volte, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone, è troppo tolgo quello. E sabato hanno dato l'altro, un sacco bello. Guarda, li ho sempre riguardati quei film. Invece c'è quello schifoso di Harry Potter, mi su Italia 1, lo odio, l'ho sempre odiato, Harry Potter. Signore degli Anelli era bello, ma Harry Potter è più per bambini, mi. E poi sto guardando cos'altro c'è in TV. Comunque Focus da dei bei documentari, anche D-Max fa vedere cose interessanti alle volte. Sì, D-Max lo guardo spesso, ma Focus spesso hanno cose belle, come fanno tipo, non so, la fisarmonica o cosa per non so il nome, la SEF, queste cose così, come fanno dei gaggi, quei gaggi che usano per fare quando vanno a scalare le montagne. Tu cose, lo stavo seguendo ieri, uno di quei gaggi lì riescono a tenere, non ho capito mai, 300 kg. Via. E meno male che variano, vabbè, rispetto a una volta ci sono più programmi, certo, c'era l'analogico, io vabbè per motivi miei volevo più l'analogico, ma è una scelta personale. Poi c'è questo film su, è arrivato il gatto, c'è Romeo, è fissata mamma, c'è un gatto che viene sotto casa a corteggiare la gattina sotto la finestra. Lo chiama Romeo, ogni volta gli dà da mangiare, cioè praticamente noi, a parte i due gatti di casa, stiamo campando il gatto rosso Romeo più un gatto nero che viene ogni tanto. Non è molto, anche se buttiamo, quando capita, magari ci abbiamo qualcosa in più, la buttiamo, sono, ci sono minimo, guarda, gatti piccoli, una ventina di gatti. Questo sono canali a pagamento, però che strano, aspetta, questo di Dakota Fanning. Ah, ecco, ci sono tutti questi altri, già ce n'è pochi di canali. Poi tra Sky, me pure. Oh, non finisce più, guarda. Eurosport. E vabbè, dai, io già c'ho quel film stasera. Invece, sai chi non mi piace più? Prima piaceva di più Steven Seagal, ma poi sono i soliti film. Ormai lui è invecchiato. Danno sempre i soliti film di Steven Seagal, dati mille volte. Beh, io ti ricordo queste cose così, oppure film di mafia italiani, quelli sì, se no riguardo, vabbè, anche a Fox non c'è niente, vediamo un po' a... come si chiama? Ma se ci fa caldura, giochiamo lì a Di Max, vediamo, no, ci fa caldura. Ah, quello alto con i capelli un po' mezzi bianchi, mezzi castani. No. Allora qua stanno mettendo pezzi di Riccardo, stanno costruendo. Ah no, c'è neanche io, ho avuto paura di ingegnarmi qua. Ho trovato la scienza per... Ah sì, è un ragazzo, sì, è bravo. Che c'è quello basso, robustello, che compra le macchine, e quello lì le mette a posto, e ne sa un bel quello, caspita. Ne sa un bel, quello è divertente. E poi le rivendono, una volta che le rifanno nuove, le vendono le macchine. Buona, quando è calda è buona, vedi? Io la mangio solo quando è liquida la polenta. Invece quando è dura non le mangio. Ma questa è già... ha tipo un budino, Sì, sì, ecco, è già condensata. No, ripeto, a me quando me la scaldano in fette non mi piace. Mi piace liquida, proprio appena fatta. Con la salsiccia, mi... Mamma mia, quanto è buona! Ah, c'era una signora, no? Come lavorava mia madre, purtroppo da qualche ora è deceduta. Comprava la polenta con la sugana, no? La cucinava, poi la metteva in un piano, la faceva a fette tipo fainé, no? Poi da lì, la volta la faceva a fette, faceva i condimenti, la faceva come la fatta al forno. Ma tu devi assaggiare questa cosa, un po' di mozzarella, un po' di formaggio, una cosa squisitissima, vabbè, poi il sugo fatto con la carne vaccinata, con il ragù, ma la cosa, guarda, buonissima. Ti mangio un piatto di quello e stavi tutto il giorno rosazio. Intanto Pomponio 4-4 c'è la filata, mi. Se lo metto dentro un magone. Un cuocomane. Mamma mia, quanto è fea la litticetto. C'è una foto qua, è ancora più fea del solito. Sta facendo... sta un albero. Una macchina. Quando sei andato al raduno della BMW con lo scopo di trovare dei paradossi europei originali, almeno quello pure, qua. Finalmente! C'è uno lì per le macchine marce, adesso le paga $1,000, eppure 1,500, tra una cosa e l'altra, adesso ne date 2,000-3,000, e la vengono bene e guadagnano. Quello è un cranio, veramente. Tra la smonta, la famiglia un prezzo, la divernicia, tutto. Qua adesso hanno fuori strada, non so se è il televisore a disposizione, e se lì tutti rossi, ci stanno da mi parte della bocca. Comunque, Oggi anche nel pomeriggio c'erano film belli, c'era Gorilla nella nebbia con Sigourney Weaver, poi altra roba c'era, tutta roba che mi sono perso. Invece domani, vabbè, sono film un po' impegnati, domani che è domenica alle 15.30 c'è La mia Africa con Meryl Streep, che è bellina Meryl Streep, mi piace come attrice, e Robert Redford dell'85, La mia Africa, e che quello è interessante, e non ho visto quello, Sì, non sono micidiale, ora io penso un po' grande. Hai appena salutato la voglia. Salvatore, ci sei ancora? Stai ancora maneggiando Spinotti? Ehi, solo che ho sbagliato il connettore N. Ho sbagliato di brutto, devo rifarlo. No, Salvatore è sul tetto, sta controllando l'antenna, sei a posto. No, sono qua, ho sbagliato il connettore, lo sto rifacendo. Adesso cos'è bene, Salvatore, invece non vuoi saltare. Quando hai una vista, cioè, quando hai una mente buona, ho saltato del buono, a me queste cose mi appassiona molto. Cos'è bene, bene. L'ho fatto di mezzo centimetro abbondante di troppo, pensa tu che imbecille. Vabbè, rifarlo, è un piano. Allora, rifare il mio connettore, cioè il PL del questo capo grosso che ho, che mi è arrivato Claudio, l'amore è casotto. L'ultima volta mi è andato in corto, ma per smontarlo ci voleva Gesù Cristo. Connettore N sto facendo, sono, mamma mia, sono maledetti, comunque ho sbagliato, adesso devo accorciarli. Accorciamo Salvatore, vedi un po'. Connettore N a 10.000 pezzi, Luca, l'hai visto com'è? Io su internet non l'avevo mai fatto, su internet ho visto come si fa e c'era un forellino per saldare il centrale, no? Allora, ho voluto provare a farne uno perché avevo un'antenna con connettore N. Lo compro a Fusaro, però mi dà un connettore N che non ha quel forellino che ho visto io per saldarlo. E ho detto, allora come cavolo si salda? E non ne ho fatto, non ne ho fatto. Piuttosto ho usato un adattatore da N a PL e non potevo fare altro. E non so, diciamo, gli pezzi. Aspetta un attimo che... Ecco qua. Vabbè, però piano si fanno queste cose. A me piace fare le micro saldature. Micro? Ma Luca, tu te l'avevi già preso la stazione ad aria calda? Saldante? No, la voglio arrivare per Natale. Però comunque se me la regalo andiamo a prendere. Perché non piano, me la studio bene, prima mi devo fare lo spazio. La prima cosa, attrezzarmi di luce bene, una bella lampada forte e una bella lente soprattutto, e poi posso però piano assillarmi. Allora io devo mettere a staccare i connettori, quelli USB di ricarica dei telefoni di Samsung e di altri telefoni. Allora, faccio la prova sui telefoni vecchi, vediamo un po' cosa riesco a fare, perché se a fare danno le faccio. Quelli mini USB dei telefoni, mamma mia, quando è roba piccola ti fa diventare scemo, ti fa dannare. O se no, mamma mia, gli SMD, cioè per gli SMD devi avere una vista da falco e poi anche, detto tra noi, un sistema nervoso a prova di bomba, perché a me proprio mi saltano i nervi quando la roba è troppo piccola da saldare. Io ho cambiato, vabbè, l'ho smontato tagliando comunque un connettore di ricarica, quindi è uguale alla, diciamo, al Samsung, all'S4, all'S5, così l'ho tagliato, poi mi sono pulito bene i contatti da saldare, che sono 4 piedi della massa e più i 5 piedini di, diciamo, di dove passava la tensione. E non sono andato con il saldatore, ci ho messo un bel po', però ci sono riuscito. Mamma mia, Luca, c'è un odore terribile qua, terrificante. Il gatto ha fatto la pupù nella sabbietta. Mamma mia, ci vuole la maschera antigas davvero. No, no, a me i gatti in casa non mi piacciono. No. A chi piacciono, a me no. Una volta sono andato a fare un lavoro lì a Salina Ursino, questo ne ha 4. Venivano lì dove c'è il computer, no? Salivano sopra, lì si metteva anche sopra la stampante. E si sdraiava lì, dicevo, c'è anche vicino a me, anche avvicinati. Vabbè, però a me non... Cioè, il mio cane è anche troppo, molto quello, boh, basta animali. Ehi, ah, volevo chiedere appunto se il cane ce l'avevi sempre. E che età? Che anni ha? Quanti anni ha? Ha 8 anni. Troppi peli i gatti perdono. Il cane, vabbè, non è che perde molto, già ne perde quando si gratta, però già fa le palline lì di pelo, non è tanti peli così sparsi. Allora, per esempio, quella più magra, Flo, non ne perde praticamente niente. Invece quella grassa, Puffa, che è più robusta, che mangia un bel, i peli li perde, fa la lanetta, mi sembra proprio lanetta, mi, come si poggia sul divano, lascia proprio una specie di mucchietto di lanetta. È facile da levare perché abbiamo quelle spazzole che hanno le barbe da una parte, non so se ce l'è presente, che levano il pelo, funziona solo in una direzione. Vabbè. Oppure qua, questi qua vabbè sono gatti un po' granditi e tanto. Infatti, quelli ce l'hanno un bel. Allora a casa, brava. So che questi gatti dove tornavano. Sì, oppure usiamo la spazzola, quella rotonda che appiccica, me, che ha quei fogli che appiccicano, lo passi e si attira tutto. Beh, che ore sono, lo sapete, che io mi appresto a vedere il film, dai, fra poco. Sono le 9:04, chiaro, non è rientrato, io continuo a vedermi questo di Max. Dai, vi saluto, io chiudo, ci sentiamo domani se Dio vuole. Ciao, saluto anche a te, buon lavoro. Stavo lavorando, ciao Gianni, Claudio, non so, mi ascolto, ciao Marco, riferito. Ciao Luca, dai, buona visione, ci sentiamo alla prossima, dai. Ciao Salvatore, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima, dai. Ciao a tutti gli ascoltori anche, ciao. Cioè, chiudo anch'io, ciao. Ehi, ciao, scusate ma non posso alzarmi velocemente. Salutoni e grazie della compagnia. Ciao Salvatore, di niente, grazie a te, ciao. Ciao Salvatore, ciao. A te quando ti chiamano nulla, Pomponio, ti abbiamo chiamato più volte, tu sei andato a bere la birra. Stavo mangiando, la verità. Ah, vabbè, Antone, allora, buon appetito, dai. Io chiudo anch'io, che oppure rimango 5 minuti, che poi alle 9:15 c'è il film Bianco, Rosso e Verdone. Anche quello è una figata. Come vuoi tu, la verità? Come? Come vuoi tu? Come quella canzone di chi era, quella canzone? Sono come tu mi vuoi. Però è diverso quello. Su long, su tic, su hard. Non ho capito niente, la verità. No, c'era una canzone dei Megadeth, no, che era intitolata su far, Com'era? Beh, non me lo ricordo. Quello voleva dire così lontano, così coso, così cosa, boh. Io dico so long, so thick, so hard, che vuol dire così lungo, così grosso, così duro. E te lo sacchi il culo, diceva quello. La rima hai trovato. Tu è avanti. Sei un educato, sei pompo, parla bene. Ciao Luca, buonasera. Se lo vuoi cosa devo fare? Io sono un santo, però là, ci ha salvato le mani lì, c'hanno i figli. Insomma è la moglie, là. Abbiate pazienza. Ma questo pompone è un porco. È fottuto. Come che dicevi tu, Antonè? Poco, molto poco, vuttudo. Poco vuttudo, esatto, sì. Sabato ci sei? Ehi, ma sto saltando. Hai visto che non sta facendo niente di male. Meno male, grazie Sabato, mi sono salvato. Mi volevano incastrare. Delinquente, piccolo delinquente. Piccolo delinquente, non ti faccio male, non ti faccio male con mia moglie e mia zia. Maniaco. Oi, oi, l'amo del Poletto dice, far calare è semplicemente un piccolo delinquente. Appunto per quello. Dico sempre bei tempi, mi piacerebbe ritornare, lo sai. Se potessi tornerei all'84 e rinizierei tutto da capo. Ma non si può, quando tu eri là, che era una bella posizione anche via Ricetto, Antonè. Tu dicevi che era persino migliore di quella che hai adesso, eppure tu sei in alto, no? Tu non sei più alto di via Ricetto adesso. No, assolutamente no. Oh, cioè via Ricetto sarebbe più in alto, forse più aperta, ma non più in alto. Sto facendo io il più alto di come sono adesso. Oh, boh. E comunque era anche più aperta. Tu hai detto che verso Sorso è quei palazzi nuovi che ti coprono la visione, no? La portata ottica ti tolgono. Vabbè, ma non ti puoi lamentare, dai. Peccato solo per quelle tralicci che creano QRM. Se fossi bello libero dai tralicci sarebbe molto più silenzioso anche il Kenwood, per dire, no? Già lo so, no, già l'ho venduto, grazie a Dio il Kenwood adesso, sono a posto, quindi non c'è più QRM per niente, sono tranquillo. Ah, l'hai già venduto? Eia, tutto a posto adesso. Eia. E adesso con questi soldi cosa ne fai? Tutti in donne te li spendi? Vado a bagasse, qual è il problema? O tutti in birra? No, vado a bagasse, se sei vecchio mi diverto a meno, che 50 euro sono, non è un problema per quello. Mica c'è Salvatore d'ascolto, ma perché devi essere così scurrile? Lo sto dicendo. Basta dire, io vado a paripatetiche, che vuol dire la stessa cosa che hai detto tu. No, è diverso. No, peripatetiche. Da peripazzo c'era una via dove, greca, antica, dove solevano passeggiare le signorine che si vendevano, e da lì il termine da peripazzos greco, peripatetica, che vuol dire puttana. Guarda che è uguale, non c'è da niente, comunque sia. Adesso mi diverto, però mi sfogo ogni mese, una passata al giorno mi dico ritorno. Vabbè, ma è un modo meno scurrile di chiamarlo. Già dito, se poi c'è il negro nascosto dietro la porta, mi arriva da dietro. E che ottaglio già lo sai. Io per Natale cosa... E tu per Natale cosa ti regali, Antonio? Hai qualche prospettiva? Già fatto un regalo per me per Natale, non ti preoccupare. Mi sono fatto un bel regalo alla vita civica. Non mi sembra vero, guarda. Ho tombato tutto quanto la notte fino alla mattina e poi inaugurare un bel Kenwood. A fare di ex. Ma hai cambiato Kenwood, non ho capito. Ma tu non ti volevi pigliare la macchinetta 50? Quella dopo, non ti preoccupare tu. Che piano piano si fanno le cose. Quella per dire, per chi non ha la patente B, per fare la spesa hai un bijou, ma ci puoi andare a Capotamona, piano piano ma ci arrivi. Ti fai dei giri, è utile, soprattutto non è come il motorino che in inverno prendi freddo, ti bagni, lì stai al chiuso, non c'è pericolo. Non so se abbiano pure il riscaldamento, non lo so quello, è perché non l'ho mai vista dentro. Anche usata, Antonè, perché nuova la paghi un bel po'. Se la prendi usata la paghi molto molto meno, basta che il motore sia a posto. Anche i vigili urbani ne usano una, mi dico, le macchinette per guasti. Gliel'ho vista lì alla sede dei vigili urbani. È bianca, piccolina, piccolina, ci stanno in due, mi. Le vigilesse la usano. 7.000 euro quella costa. Ma nuova? No, mi sta aperta, non nuova. Un po' alto, ma sicuramente lo trovi anche a meno, mi Antonè. Basta trovare quello che ha bisogno di soldi e te la vende. E poi mi ci mette un bel baracchino sopra, io se ce l'avessi farei la pazzia, mi. Vabbè che la scocca è di plastica, ma tu gli mandi un cavettolo, gli fai fare contatto con lo chassis di metallo, ci mette un baracchinetto piccolo, perché quello lì c'è poco spazio e l'antenna di baracchino. Sembra te così. E poi già che ci sei ci metti anche un antennino bibanda, VHF, VHF. Maniaco, qua. Eia. Così facciamo tutto, tutto un po'. Poi io ero indeciso se comprarmi strumenti ludici, se prendermi una ASG nuova, quei fucili che sparano pallini di plastica per il tiro a segno. Il G36C mi piacerebbe, o uno SCAR, vabbè tu non sai cosa sono, ma come se spari dentro casa con la carabina a piombini, quella è forte, rischi di sfasciare qualcosa, no? Invece con quella pallini di 6 mm di plastica non rovini nulla, e quelle sono molto divertenti per fare il tiro a segno a casa. E vabbè, vediamo, dai, adesso, oppure pigliamo una pistola, roba corta, dai, un revolver, mi stavo puntando. Baracchini, c'è il rischio poi che mi prendo un baracchino nuovo, mi. Cioè, questo baracchino, guarda, questo non anziché il display rosso, il display blu. So che sarebbe l'ennesimo doppione di Antonello, non va bene. Cosa vuoi rispondere secondo te? Se ti pigli una pistola ti ammazzo, te lo sto dicendo io. Quindi scegli tu cosa vuoi fare, non fare la fine di un'altra persona che conosco io, si è comprato la pistola e si è attaccata in culo, quindi se tu vuoi fare quella... mamma mia, cazzo. Non bisogna pensare, guarda, non è possibile, la scelta è quella, no, se tu fai quella scelta lì, guarda, te le butto giù, mi sa, tu attacco, ti porto lì e ti metto in obbligato, lo dico io. E per quale motivo, Antonè? parte che sono già pieno di pistole, a Salve, a Piombini, a Pallini, ne ho già tre. Cosa vuol dire? Mica sono pistole vere, mi. Tu non distingui una pistola giocattolo da una pistola vera, mi. No, forse non capito niente, tu. C'è un altro che faceva così. Si ha preso una pistola vera per che cosa? Per attaccare nel culo a un certo punto. Quindi, il discorso è quello lì. Hai eliminato ma non sa ma cosa dice. E basta. No, ma a me pistole vere non me ne servono, non me ne faccio niente, a me le pistole vere. Qua siamo poveri, non viene nessuno a rapinarci, capito? Magari ci lasciano 100 euro, anzi. Ma te lo sto dicendo, lascia perdere le pistole. A frutti dimmi. Meglio un'altra cosa, guarda, meglio fare il codalone. Se vuoi fare quello, non c'è nessun problema. Ma pistole, cose del genere, lascia perdere. Le perle di saggezza di Pomponio. E te lo sto dicendo io, se vuoi, dammi detto bene, se no avanti, ti diceva quello. La verità a me. Io ci tengo a te, quindi lascia perdere. Non fa la fine di Natalino. Te lo sto dicendo io, non fa la fine di Natalino. Il discorso è quello. Ho fatto un nome e una garanzia. Anche se lui magari si offende quello che è, perché l'ho citato, ma non fare quella fine, lo sto dicendo io. Non ti conviene. Oh Luca, sta già vaneggiando un po'. No, ma non ho capito, perché il Natalino che fine ha fatto? Spiegami. C'ha la pistola, c'ha tutto, boh, fa le cose, boh. È un discorso che non è coerente, non ti capisco, dottore. Beh, uno non può avere una pistola in casa. Basta tenerla in cacciaforte, sotto chiave, che ha bambini. E cosa vuol dire? Non bisogna demonizzare le armi vere, a parte che le mie non sono vere. Sono tutte armi per tiro a segno, così. Sparano pallini di plastica, mi. Sono precise, ma tutta roba che non dà nessun problema, capito? Poi quella Salve per sparare a Capodanno. Non me ne frega niente le pistole vere. Che ti succede? Non mettiti quella cosa. E ubriacomi. Le pistole, fregatele. Io sono adulto e vaccinato, Antonè. A parte che in porto d'arma non ne ho, quindi pistole non ne posso pigliare, non ne posso comprare, dovresti saperlo già. Lo so, ma lui invece ha preso il porto d'arma, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di cose, non ti preoccupare. Anche lui è cominciato da lì. Ma, per quello che lo sto dicendo, non te ne fai nulla, mi. Prendo una pistola vera e ti sparo. Vengo, prima ti sparo al cane, poi ti sparo le palle. A me? Ci mancherebbe. Facciamo roulette russa, prendo un revolver, mettiamo una sola cartuccia, giriamo il tamburo e poi spariamo alla tempia a vedere chi vince. Sicuro. E non l'hai visto? Aspetta, cos'era? Quel film con De Niro? Non era buona. Come si chiama quel film con De Niro? Il cacciatore. Il cacciatore, sì. Sì, dimmi. Non l'hai visto? No, dimmi. Sì, che lì i Viet Cong praticamente scommettevano, facevano fare la roulette russa ai soldati americani, capito? Li costringevano, ogni tanto sparava la pistola e ne moriva qualcuno. E allora poi? E poi basta, cosa sei dicendo? No, tu. L'hai visto tu il film, io l'ho visto, ma in realtà è quella. Dimmelo tu cosa è successo. Punto, facciamo la stessa roulette russa a vedere chi schiatta prima. No, secondo te lo devo fare. Fammi ammazzare, no, te la prendi culo prima tu, a un certo punto. Oi, racconci Zebubi. nominiamo un ministro della difesa, Antonè, a vedere che fine facciamo noi. La fine di che facciamo? Lo dico io. Così ci invade, persino l'Albania ci invade.